24 mattino. L'intervista. E allora eccoci qua alle 8:22 minuti, ben ritrovati. Come detto, una delle novità è proprio questa, l'intervista che faremo a quest'ora fino alle 8:30, a partire da oggi e a partire da, devo dire, un ritorno molto atteso. Enrico Mentana, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua, oggi alle 20 su La 7, il direttore TG della 7, in video, Enrico Mentana. Insomma, questa è una bella novità. Tra la corazzata TG1 e TG5, proprio alle 20, che è pazzia, no? No, è pazzia. Intanto, se c'è pazzia, c'è del metodo in questa pazzia, come diceva Polonio di Amleto. Però è un metodo che c'è da tempo, nel senso che il telegiornale della 7 da tempo ha questo orario serale. Adesso semmai c'è, come dire, la novità che proviamo a fare qualcosa, e non da oggi, la verità è quello che abbiamo cominciato a provare per tutta l'estate, a proporre un telegiornale che invece di essere alternativo sia concorrenziale, nel senso che non tenta di parlare d'altro, di sparigliare perché ci sono due grandi telegiornali alla stessa ora, visto che in una percezione che si va allargando a torto o a ragione, come è giusto che io dica, la somma di TG1 e TG5 non fanno la pluralità, non fanno la completezza, c'è la possibilità di fare un'offerta terza e vedere se si prende una parte del pubblico. Diciamo. Che vuol dire non sono, cioè, perché TG1 e TG5 sono filogovernativi? Questo? In una percezione si dice, insomma, leggendo i giornali, ascoltando i commenti, sono diverse le voci che dicono che in questo momento il panorama dell'informazione televisiva non copre tutto, diciamo. Noi proviamo non a fare il telegiornale alternativo, il telegiornale, come si diceva una volta, de sinistra, cerchiamo di fare un telegiornale assolutamente percepibilmente libero e completo, tra l'altro non saprei farlo diversamente, onestamente, no? In maniera tale da dare una ulteriore offerta al pubblico. Ma che pensa? Direttore, sarà contento Berlusconi, secondo lei, del suo rientro in video? Beh, insomma, se non sarà contento sarà uno spettatore in meno. Non è questo il problema. Il problema è di fare qualcosa che riguardi una massa possibile di spettatori, di cittadini italiani. Se vogliono vedere un telegiornale alternativo, un telegiornale diverso, un telegiornale che ha percepibilmente tutte le notizie, non che non lo abbiano gli altri, ma noi ci poniamo così nell'edicola elettronica come una terza scelta. Parlerà ovviamente anche di politica, ma chiedo anche della politica, metto io questo aggettivo, un po' pagliaccesca che si è vista quest'estate, cioè almeno dalla percezione che ci sono state di molti italiani, insomma, di questo teatrino un po' che c'è stato, di dichiarazioni. Anche pagliaccesca, ma se rischia di cadere il governo, tanto perché non è, perché in realtà, questo sì. Qui bisogna stare attenti, perché se non se ne parla è peggio, no? L'importante è se le cose, dal punto di vista nostro di giornalisti, è se le cose succedono o non succedono. Se succede una cosa anche pagliaccesca bisogna raccontarla. Cosa che per esempio lei ha detto in un'intervista, la RAI non ha fatto, perché fa una programmazione, pur essendo la TV di Stato, da scuola elementare, no? 3 mesi in vacanza, tutti via. Sì. Adesso vogliamo intenderci, parlavo dei talk show, sì, certo. Ormai sono regolarmente andati in onda, quello, però sì. A un certo punto c'è stata la protesta, come dire, come sta succedendo tutto questo, non ci sono i talk show, ma i talk show dovrebbero esserci anche se non succede tutto questo, nel senso che è abbastanza balzano che la programmazione, e non soltanto in RAI, ma la RAI è il servizio pubblico, è ben inteso, la programmazione all'inizio di giugno vada in vacanza e la programmazione degli approfondimenti giornalistici vada in vacanza e ritorni a settembre inoltrata, a metà settembre, appunto, sono gli orari più lunghi addirittura ormai dei bambini delle elementari, non si capisce perché poi con tutte le cose che succedono in tutti i mesi estivi, e non soltanto, questa volta c'era la politica e quindi c'è stata la spinta della politica a autorappresentarsi anche d'estate, perché questa poi è stata la vera spinta, dov'è Vespa, no? Ti accorgi? È come quando in piena estate comincia improvvisamente a far freddo e ti chiedi dov'è il maglione, non può essere un maglione approfondimento, no? Ma perché ormai l'informazione è solo schierarsi? Cioè oggi su Repubblica, tra l'altro, lei fa questa intervista e dice un altro Mentana al TG5 non sarebbe più possibile. Perché? Cosa è cambiato? Un'altra cosa, cioè, non è questo, è che se noi vediamo i giornali quest'estate che hanno venduto di più, molto di più di quanto sperassero, per intenderci, sono i due, vogliamo dirli, i due aggressivi filogovernativi e i due aggressivi antigovernativi, cioè giornale Repubblica e Fatto Quotidiano, vuol dire che poi c'è una parte del pubblico, una parte dei cittadini che compra i giornali per vedersi confermata nelle sue tesi e per vedere delle belle botte all'altro. E questo per la verità è anche il sistema che va più in voga anche in televisione, vediamo, cioè se uno vede una puntata di Anno Zero e poi vede un altro tipo di trasmissione, l'altra trasmissione gli sembra il loro fuori. E quindi la 7 dove si schiera, il TG della 7? Con chi si schiera? Beh, il TG della 7 fa un telegiornale, cerca di fare un telegiornale che non sia palloso, che non sia noioso, che sia... perché? Perché è aggressivo? No, perché è completo, cioè se tu sei irriverente, se non sei impomatato, se non sei ufficiale, è già quello che ci vuole. Non dobbiamo essere noi a dire quello è un imbecille per poter farci notare. Grazie al cielo non è questa la nostra mission. Vabbè, insomma, per concludere, Berlusconi, se non guarda, è un ascoltatore perso. Anche con Falonieri nessuno ha chiamato, immagino, dei vertici. Anche Bersani, anche Di Pietro, cioè, vediamo di intenderci. Non per ringraziarsi. Però dopo 20 anni di Mediaset, magari una chiamata da qualcuno, insomma, bentornato. Ma no, le chiamate ci sono state quando mi hanno assunto alla 7. Cioè, non è che bisogna adesso ogni 2x3 farsi dei bigliettini di cortesia, si tratta di fare qualcosa di diverso. Insomma, adesso con tutto il rispetto, non è che neanche tu mi hai chiamato. Cioè, non è il mio compleanno. E poi soprattutto... parliamoci molto chiaramente, adesso il sistema dei mass media vuole che si dica, allora Mentana torna in video, eccetera. Però il telegiornale c'era ieri, c'è oggi, c'è domani. No, quello sì, però vorrei tranquillizzare, conto meno di Confaloniere e Berlusconi. Insomma. Però avete qualcosa in comune. Certo, il grande Milan, a proposito vi abbiamo soffiato Ibrahimovic, giusto per chiudere. Guarda, io non posso, sono l'ultimo che può parlare male dell'usato sicuro. Vi ha fatto vincere abbastanza, speriamo tocchi un po' a noi. Grazie Enrico Mentana, alle 20 oggi sulla 7, ovviamente in bocca al lupo e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie altrettanto, allora 8:29, 50 secondi, che dico? Un po' di pubblicità e poi rientriamo con il nostro sondaggio bianco o nero. Oggi vi chiediamo se sia giusto, secondo voi, dare l'8 per 1000 anche alle confessioni religiose nella nostra dichiarazione dei redditi. Tra pochissimo. 24 mattino estate. E allora eccoci qua alle 8:34 con il nostro sondaggio di oggi, bianco o nero, su radio24.it dovete votare. Oggi parliamo di dichiarazione dei redditi degli italiani, soprattutto di una parte specifica, quella dell'8 per 1000, che può essere destinato anche alle associazioni religiose. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Milioni di italiani si ritrovano ogni anno a porre quella crocetta, no? Di destinazione dell'8 per 1000, si può destinare allo Stato oppure si può destinare a una serie di associazioni religiose, da quella che prende la fetta più grande ovviamente la Chiesa Cattolica, si parla di 1 miliardo di euro circa nell'ultima dichiarazione dei redditi nel 2010, ci sono altre confessioni religiose, altre invece non sono riconosciute. Noi vi chiediamo, secondo voi, se sia giusto concedere la possibilità anche di dare l'8 per 1000 a confessioni religiose. Ne vogliamo parlare intanto con due ospiti che saluto, l'onorevole Paola Binetti, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. E Mario Staderini, buongiorno, che è il segretario del Partito Radicale, del Radicale Italiano. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Tra l'altro, Staderini, lei qualche anno ha scritto anche un libro, no? Se non sbaglio, sul sì, tema. 8 per 1000, come lo Stato sottrae 1 miliardo di euro ogni anno agli italiani per dargli alla Chiesa Cattolica. Il titolo dice già la sua posizione. Perché lei è così critico, Staderini? Ma io credo che la libertà religiosa sia il vero valore da tutelare, e in tante parti del mondo, pensiamo ai paesi che sono molto permeati da sentimento religioso, pensiamo all'America, agli Stati Uniti, ma alla stessa Gran Bretagna, dove addirittura la religione è una religione di Stato, la regina è capo della Chiesa Anglicana. In quegli stati non si dà un penny, un centesimo alle confessioni religiose da parte dello Stato, perché si ritiene che debba esserci un autofinanziamento, si crede nell'autofinanziamento evangelico quasi appunto da parte dei fedeli, perché altrimenti si riconoscerebbe un vantaggio necessariamente un privilegio ad una religione piuttosto che un'altra, e soprattutto si finanzierebbero attività che non sono tendenzialmente attività di culto molto spesso, ma sono anche attività che possono riguardare l'influenza nella società e quindi attività lato senso politico. E questo però, Staderini, però intanto io voglio ricordare 800 24 00 24, se volete intervenire sul tema in diretta, oppure gli sms al 349 238 6666. Le chiedo, Staderini, andrebbe riscritta la storia, no? Sappiamo la storia, rapporti col Vaticano, il concordato. Il dato di fatto è che la nostra legge prevede delle intese, insomma, non vogliamo stare ad epilogare, per cui è possibile questo. Visto che è possibile questo nell'8 per 1000, cioè visto che cancellare con un tratto la storia è un po' difficile, perché lei dice vengono sottratte dalla Chiesa Cattolica 1 miliardo di euro? Sono scelte degli italiani quando pongono la loro croce? Accolto il punto, una volta che c'è una legge, perlomeno quello che dico io è che la si rispetti, mentre invece siamo in una situazione di totale illegalità e l'8 per 1000 è una truffa per un semplice motivo, perché il 60% degli italiani non esprime una scelta, cioè non dice a chi vuole destinare il proprio 8 per 1000, e nonostante questo gli viene sottratto questa parte delle sue tasse, viene riversata sulla base delle scelte espresse dagli altri. Questo è un aspetto vero e interessante, tecnico ma vero, forse lo spiegheremo. Parliamo di 600 milioni di euro. Ma certo, cioè il 60% degli italiani non mette, sappiate che chi non mette, come vengono ripartiti quelli che non mettono? Vengono ripartiti in base alle scelte fatte da chi invece mette quella crocetta. Lo so che è un po' tecnicamente difficile da spiegare, però di fatto è così, cioè se la maggioranza sceglie, per esempio, scegliesse lo Stato, l'80% lo Stato, il 20%, il 10% la Chiesa Cattolica, il 10% l'Unione delle Comunità Ebraiche, quegli italiani che non hanno deciso di non segnare, percentualmente distribuirebbero con queste percentuali, 80%, 10 e 10, andrebbero alle confessioni religiose o allo Stato scelto dagli altri, quelli che invece hanno deciso di porre la loro croce. Onorevole Binetti, al di là del lato tecnico, perché invece è giusto, secondo lei, finanziare le associazioni religiose? Allora, intanto bisogna rispondere due o tre cose per precisare meglio a quello che ha detto Staderini, che a mio avviso sono quantomeno parziali, e io le rispetto come il suo punto di vista, ma diciamo non tengono conto di una serie di elementi che hanno un grande peso. Primo, esiste un criterio di libertà, per cui chi vuole mette la crocetta, chi non vuole mette la crocetta, chi la vuole la mette per esempio per dare allo Stato, lasciando allo Stato, sapendo che con la finanziaria del 2004 si è stabilito che la quota devoluta allo Stato, di fatto, si ricorderà anche lei, andasse a coprire una parte delle spese che si stavano affrontando in quel momento per la campagna, si ricorda la famosa missione antica Babilonia. Quindi questo poi non piacque molto agli italiani, che ritenevano che anche nelle quote assegnate allo Stato andassero privilegiati altri obiettivi. Conosco amici carissimi che sarebbero ben felici di lasciare questa quota allo Stato se lo Stato lo investisse a favore delle famiglie. Questo tanto per essere chiari, per esempio anche per fare il famoso quoziente familiare che dovrebbe ridurre la pressione fiscale. Di fatto lo Stato lo utilizza in gran parte per le sue spese ordinarie, quindi un po' buffo questo meccanismo, però esiste la possibilità di scegliere lo Stato, ma esiste anche la possibilità di scegliere la Chiesa Cattolica e con la Chiesa Cattolica, però poi dopo tutta un'altra serie di iniziative, lei sa meglio di me, la Chiesa Valdese, la Chiesa Evangelica Luterale, le comunità ebraiche, le Chiese Adventiste, cioè voglio dire, esiste la possibilità di venire incontro ad altri modi di riconoscere una dimensione importantissima dell'uomo, che è il valore della vita. Però ecco appunto, perché Mario Staderini pone due critiche. La prima è che dovrebbero autofinanziarsi l'associazione se siamo in uno stato laico, e quindi questa è la prima obiezione che le faccio, insomma, o che le fa Staderini. Perché dovremmo finanziare, anche seppure liberamente, delle associazioni religiose? Allora, la prima risposta è molto semplice: lei non le finanzia necessariamente, si finanziano liberamente, nel senso che chi vuole lo sostiene, e questo potremmo dire è un po' la doppia logica che c'è tra il sistema, per carità di Dio, è un'analogia impropria, però per capirci, no? Tra il maggioritario e il proporzionale. Lei finanzia direttamente quello che vuole finanziare. Sì. Poi, chiamiamolo così, il non finanziato si ripartisce proporzionalmente. E questa è la seconda critica. Perché se uno non vuole finanziare, va a finire che se non vuole finanziare nessuno, né lo Stato, né l'associazione, né la Chiesa Cattolica, né i luterani, né le comunità ebraiche, il suo voto, il suo non fare una crocetta comunque viene ripartita. Ma perché comunque quelli sono in principio... sorrido perché lei ha detto se uno non vuole finanziare lo Stato, ma perché in principio quelli sono soldi che, essendo soldi di tasse, certo. Io già in automatico do allo Stato. Semmai in qualche modo è attraverso una consapevolezza che lo Stato ha molto forte e che è totalmente legata alla storia d'Italia. Giustamente lei diceva, magari che nel corso della trasmissione ricorderemo alcune tappe di questo, no? Però storicamente ci sono delle tappe che riguardano la cosiddetta famosa confisca dei beni ecclesiastici, che è stata massiccia e non indifferente. Ma poi attualmente, se lei mi dice chi è che si fa carico del tessuto sociale da mantenere il più possibile coeso attraverso iniziative di formazione con i giovani, pensi al grande lavoro che fanno non solo le parrocchie, gli oratori, ma di attenzione agli anziani. Se lei in questo momento il calvario di voler accompagnare un anziano in un istituto, lei sa bene che quelli dove funzionano con una qualità di relazione interpersonale, di attenzione, eccetera, sono quelli retti da religiosi, perché c'è una, se vuole, c'è un approccio vocazionale, la sensibilità agli ultimi, ai più malati. Però è così. Ma è così. C'è da dire, c'è poi anche una critica, forse poi Stadolini su questo ce lo dirà, del fatto che la Chiesa Cattolica credo utilizzi solamente una parte, cioè credo il 20% delle entrate, quindi di quel miliardo di euro per opere di questo tipo a cui fa riferimento lei, onorevole Binetti. Poi magari invece l'80% qualcuno dice dove vanno questi soldi. In ogni caso io vorrei anche salutare, perché ci sta ascoltando, l'imam Yahya Pallavicini. Buongiorno, imam della moschea Al-Waida Milano, tra l'altro vicepresidente del Coreis. Pallavicini, buongiorno. Buongiorno. Perché si è fatta anche gran polemica, c'è stata un po' di polemica, perché tra le confessioni religiose che non sono riconosciute, che quindi sono fuori dalla questione degli 8 per 1000, c'è la questione dell'Islam e dei musulmani. Ora, non la voglio far entrare proprio nel giorno in cui Gheddafi ha detto che l'Europa si dovrebbe islamizzare, insomma quello appartiene secondo me più al baraccone che alla religione vera e propria. Però le chiedo, Pallavicini, vi disturba il fatto che i musulmani non vengano considerati in questa ripartizione? Ma ci disturba l'incoerenza. Dice bene, non parliamo delle sceneggiate in questi giorni di Roma di conversioni proprio da baraccone. Però la questione è che al di là di queste sceneggiate esiste oltre 1 milione di musulmani in Italia, e almeno di questi il 10%, vale a dire 10.000 cittadini italiani musulmani, che hanno sia gli autoctoni, o meglio i cittadini, che gli immigrati, una grande esigenza e credo un diritto di partecipare di questo valore costituzionale di una libertà del pluralismo religioso, per poter organizzare il proprio culto in maniera trasparente e dignitosa come le altre confessioni hanno potuto però fare. Lei, Pallavicini, crede, voglio dire, non c'è un problema di prudenza forse anche necessaria? Qualche problemino con l'Islam integralista l'abbiamo avuto nell'ultimo decennio, no? Questo è vero, noi l'abbiamo sempre denunciato, ma non possiamo, quella è un'altra minoranza degenerata. Ma non possiamo avere una storia adesso che è la storia dei controsensi. Da un lato ospitiamo un militare e gli diamo la facoltà di volgarizzare il Corano e la dignità femminile per fare delle conversioni di massa di carattere teatrale, e dall'altro lato, sulla base di reali e purtroppo drammatiche strumentalizzazioni da parte di una minoranza di estremisti, andiamo a negare alla maggioranza dei musulmani e dei credenti moderati, osservanti, lavoratori e studenti che vivono in Italia il diritto allo stesso livello degli altri credenti. Allora, andiamo ad ascoltare le informazioni sul traffico, poi da qui ripartiamo. Qualche ascoltatore, voglio tornare anche da Staderini, insomma, per capire come replica all'onorevole Binetti. Un attimo. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. C'è da dire che la maggioranza, il 74% dei partecipanti però al sondaggio, è contrario, dice no, non è giusto riconoscere la possibilità anche di dare con l'8 per mille finanziamenti alle associazioni religiose. Sentiamo un paio di ascoltatori, a cominciare da Claudio da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno, dica. Sente? Benissimo, dica. Allora, volevo fare un po' di considerazioni e poi dire qual è la mia idea. Sì, ne faccio un paio e brevi però. Sì, l'8 per mille vuol dire 0,8%, quindi è una cifra altissima dell'IRPEF. Prima considerazione. Seconda considerazione, chi dà i soldi allo Stato, spesso si è visto che i soldi allo Stato sono andati alla Chiesa. Perché? Che vuol dire? Che se io li do allo Stato non li voglio dare alla Chiesa. Se no, li do, no, alla capito, Chiesa. Ma perché se li do allo Stato vanno alla Chiesa? In che senso? Perché in una delle ultime finanziarie il governo italiano ha deciso che i soldi dati all'8 per mille dedicati allo Stato sono stati dati alle associazioni cattoliche. Ma questa è un'altra, è una piccola parentesi. Vabbè. Terza informazione, ci sono 1 milione di musulmani, le religioni più grandi al di fuori della Chiesa cattolica sono fuori da questo gioco. Le religioni più grandi, l'unione delle comunità ebraiche, insomma, gli ebrei sono riconosciuti, i valdesi sono riconosciuti, i luterani, gli avventisti. Ha ragione, i valdesi sono, quanti sono? Ma solo l'Islam, scusi, gli ebrei, solo l'Islam è fuori delle grandi religioni monoteiste. Italia. I buddisti ora verranno forse, proprio questo è il tema, da settembre, da quest'anno dovrebbero essere conosciuti i testimoni di Geova, i buddisti, i mormoni, i cristiani ortodossi, quindi queste sono nuove confessioni, Claudio, che dovrebbero essere riconosciute. Noi paghiamo le tasse da tanti anni e 10 anni che non ci sono. Non ho capito lei di che fa parte. Non importa, comunque... No, non ho capito perché è andata via la comunicazione. Le sto dicendo che testimoni di Geova, buddisti, mormoni e cristiani ortodossi dovrebbero essere le nuove confessioni riconosciute da quest'anno, dall'anno prossimo. Ma comunque è giusto che se uno vuole dare quasi l'1% delle sue tasse alla Chiesa Cattolica, lo dia, o a qualsiasi chiesa, lo dia per sua spontanea volontà, perché moltissimi italiani... pensano di non firmano perché non glieli vogliono dare e gli vengono dati con questa ripartizione. Vabbè, però invece l'onorevole Binetti contesta questo a dire che c'è un'estrema libertà, cioè che se li vuoi dare li dai, se non li dai allo Stato, se non vuoi far niente o se non sei informato, e questa è la mia critica a Staderini, se uno non è informato, non si informa, non firma niente, non fa la croce, e poi per questa ripartizione un po' complicata tecnica vanno anche a chi magari lui non vorrebbe, insomma, la legge non ammette ignoranza, insomma, se uno vuol darli allo Stato faccia questa benedetta croce e basta, no? Beh, la legge non ammette ignoranza, ma a volte i governi, anzi tutti i governi dal 90 oggi l'hanno promossa. Pensate che solo 4 anni fa è stato scritto sul 7.30, perché io con i miei compagni radicali abbiamo fatto una diffida al Ministero dell'Interno. Insomma, il sistema dell'8 per mille si basa, è una truffa, perché si basa sull'ignoranza in cui vengono tenuti gli italiani che non firmano. Soprattutto si basa sul fatto che lo Stato che concorre alla ripartizione gioca a perdere, cioè mentre vediamo molta pubblicità in televisione da parte della Conferenza Episcopale Italiana, non vediamo nulla da parte dello Stato, che quindi non promuove neanche se stesso. Ad esempio, poteva decidere di versare quei soldi per il terremoto dell'Aquila, perché una delle finalità è gli interventi in casi straordinari, sì. Beh, in quel caso gli italiani avrebbero firmato con grande entusiasmo sicuramente, ma non l'ha fatto per evitare di creare problemi alla conferenza. Che dice concorrenza, non voleva fare concorrenza. Non fa concorrenza, è sempre un mercato, è il mercato delle coscienze stiamo parlando. In più c'è una truffa vera e propria di legge, cioè la legge prevedeva che qualora aumentasse siccome non si sapeva la previsione di quanto era l'ammontare dell'8 per mille IRPEF, qualora aumentasse oltre misura si rivedesse l'aliquota, cioè sì. Anziché andare all'8 per mille si arrivasse al 4. Bene, negli ultimi 15 anni si è passati da 200 milioni di euro a 1 miliardo di euro di gettito complessivo, cioè moltiplicando per 5, quando invece ad esempio lo stipendio dei preti è semplicemente moltiplicato per 2, che è una delle finalità a cui serve l'8 per mille, è moltiplicato per 2 nello stesso periodo. Ebbene, si doveva intervenire, non lo si è fatto, quando abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti, segreto di Stato. In conclusione, va valutata una cosa: 1 miliardo di euro che prende la Chiesa cattolica ogni anno è 5 volte quanto prendono i partiti tutti insieme, cioè 200 milioni di euro. Questo per far capire il potere di pressione, anche perché quei soldi vengono dati a Movimento per la Vita, le associazioni, forum, associazioni familiari, cioè che poi, tutte quelle che poi fanno propaganda sull'agenda etica, poi dei temi etici. Cioè, allora, io personalmente finanzio l'agenda etica del Vaticano, Mario Stadrini, non altri. Sì, sì, e lei non è contento. Su questo risponderà Paola Binetti, però prima Stefania da Milano, sentiamo un'ascoltatrice, buongiorno. Buongiorno, solo una riflessione sull'Islam e altre confessioni che verranno incluse l'anno prossimo. Personalmente non ritengo giusto dare questi fondi a queste confessioni per il fatto che verrebbero comunque spesi per piccole comunità in modo diciamo autosufficiente ed egoistico, mentre la Chiesa Cattolica ad oggi ancora si occupa di fare del volontariato, aiutare le famiglie con i ragazzi, le persone anziane con l'assistenza, le altre associazioni, per quello che so io, eventualmente li spenderebbero solo nel improprio. Improprio che vuol dire? Cioè, non so, l'Unione delle Comunità Ebraiche le aiuterà per fare iniziative simili nella comunità ebraica, certo. No, non credo. Ecco, io non so se questo esiste, se questo esiste, allora inserirei anche la comunità ebraica. Che è già, no, è già presente l'Unione delle Comunità Ebraiche. No, intendo dire, potessi decidere io, li lascerei a godere di questo 8 per 1000. Se anche l'Islam si potrebbe occupare di fare volontariato anche a altri. Questo non so. Forse lo farà. C'è l'imam Pallavicini. Intanto, onorevole Binetti, lei la chiusura all'Islam come la vede? È giusta? Cioè, perché non l'Islam? Io trovo che prima di tutto l'Islam mostri nei fatti tre cose. In Italia, come si diceva prima, di essere capace di svolgere un'azione di servizio e di sostegno alla comunità e non solo agli islamici, perché non si dimentichi che la Chiesa Cattolica, pensi per esempio a tutto quello che fa la Caritas, fa un grosso lavoro di servizio anche agli islamici, cioè lo fa a tutti indistintamente. Secondo, che coloro che rivendicano questo tipo di situazione ricordino anche il principio di reciprocità. La Chiesa Cattolica, a quel signore che prima faceva riferimento al fatto che solo una percentuale limitata viene spesa per lo stipendio dei sacerdoti, io vorrei ricordare che la Chiesa Cattolica investe il 35% del sostentamento dei sacerdoti, il 20% gli interventi caritativi in Italia, il 16% interventi caritativi in tutto il mondo e poi solo una piccola parte nella nuova edilizia di culto, cioè nella costruzione delle chiese in periferia. Tipo il 40% rimane, no? Fatti i calcoli. Siamo... Aspetti, allora se 35, vuole... 55, 65, 30% rimane rispetto a quelli che mi ha detto lei. Cioè, no, ce n'è un 8% che la Chiesa Cattolica spende per i beni culturali. Non si dimentichi che il patrimonio artistico italiano è all'80% un patrimonio artistico legato alla realtà comunque spirituale, religiosa, le chiese, le realtà dove le persone accedono anche. Insomma, comunque lei ha posto queste cose, ha posto queste cose sull'Islam interessante. Molti luoghi comuni, francamente molti luoghi comuni, e non si tiene conto del servizio che viene prestato dalla Chiesa Cattolica in quanto cattolica assolutamente a tutti. Cioè non è che la Chiesa Cattolica è discrimina. No, ma questo sì, su questo non ci sono dubbi. Mi sembra che questo vada detto con tutta la forza e con tutta l'importanza che ha. Su questo non ci sono dubbi, cioè se uno bussa alla porta di una parrocchia non è che gli si chiede di che religione, a che religione appartiene. Insomma, questo almeno è nel principio base. Io devo ringraziare tutti, mi devo fermare, l'onorevole Paola Binetti, Mario Stadrini dei Radicali Italiani e l'imam Yahya Pallavicini, vicepresidente del Coreis per quel che riguarda il mondo musulmano. Ringrazio Franco Piantanida e Gaia Romani oggi in redazione e che dire, do la linea a Gianfranco Fabi che oggi e credo anche domani condurrà 9 in punto, il nostro Filippo Aureggi già aumenta la sigla e quindi vuol dire che siamo in chiusura. Votate il sondaggio su radio24.it bianco o nero, ci troviamo domani 7:23, minuto più, minuto meno.